Girava fino a 20 piano piano, la faccia contro il muro del cortile. Sapeva ormai dove lei si nascondeva. Faceva finta anche di non vedere, poi di corsa usciva dal suo posto, ma prendeva sempre, la stringeva. Solo un gioco, sì, solo un gioco, sai, quant'era bella. Solo un gioco, sai, solo un gioco ormai, ma lei viveva. La bottega del paese era un bazar, era meglio che sulle giostre. E dalle porte consumate lui guardava. Lei faceva un po' la signorina, si girava svelta, sì, e la lingua gli mostrava, il sorriso gli negava. Soltanto un gioco, sì, soltanto un gioco, sai, quant'era bella. Solo un gioco, sai, solo un gioco, ma le piaceva. Guardava nel cortile, c'era un camion molto grande e degli uomini robusti. Tutta scossa nel cappotto, stava ferma, non rideva, e guardandolo piangendo ha aperto le sue mani. Soltanto un gioco, sì, solo un gioco, sai, ma andava via. Soltanto un gioco, sì, solo un gioco, sai, ma lui piangeva. È tornata, gli hanno detto, quella sera i vecchi amici gli parlavano di lei come fosse la più bella. È entrata all'improvviso per telefonare, sì, ma lui ha visto i suoi occhi, sempre quelli. Soltanto un gioco, sì, solo un gioco che le piaceva. Soltanto un gioco, sai, solo un gioco, sì, ma le rideva. Lì vicino sono arrivata, sì, sto bene, il tempo è bello, mi rimane solo qualche giorno. Poi ha messo giù, ciao, ci sentiamo, si è girata ed il suo viso è diventato come quando lei correva. Soltanto